questa fanciulla amor fa la mi pia che m'ha ferito il cuor nella tua via. La sì d'amor percosso che solo in te pensando dopo posa e il cor di me da me tu ha rimosso con gli occhi belli e la faccia gioio. La tua vita.